tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci viene più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale, sito www.giordanobrunomi.wordpress.com. Suore, addio il 9 febbraio da Gallarate nel Varesotto. Lasceranno definitivamente la città il prossimo 9 febbraio. Notizie anticlericali, oltre il grande silenzio, costituito il coordinamento delle associazioni contro gli abusi della Chiesa Cattolica in Italia, 15 febbraio 2022, ore 10.30, sulla piattaforma Zoom e in diretta sulle pagine Facebook di Rete L'Abuso. Mi raccomando, solidarizziamo con questa benemerita associazione. Funerali laici, respingendo il prete, parliamo di Carlo Parietti, dal manifesto di pochi giorni fa. E ha voluto il funerale al tempietto egizio del cimitero Verano, respinti i preti. Da Riforma, il settimanale dei Valdesi, in Francia 1400 atti classificati come antireligiosi nel 2021. A Milano, l'atea anticlericale Margherita Hack avrà il suo monumento. Da Tutto Milano, monumento al futuro, alla Casa degli Artisti, i progetti di otto donne per la statua della scienziata in città. Eccoli in anteprima su Tutto Milano. Passiamo ora ai misfatti clericali. Sparita da 10 anni, scovato il killer. L'ex della madre finisce in carcere e ricordano la terribile vicenda della signorina Elisa Claps. Aveva 16 anni quando fu vittima dei preti a Potenza e l'assassino fu questo Danilo Restivo. I preti coprirono l'assassino e nascosero i resti della povera ragazza nel sottotetto della chiesa. Per vendetta la madre volle il funerale per strada e non in chiesa. Molestie in oratorio, perizia sulle testimonianze dei bimbi da Busto Garolfo. 11 bambini molestati dal prete pedofilo dalla prealpina del 16 gennaio. Dalla newsletter di Rete L'Abuso, oltre il grande silenzio, nasce il coordinamento delle associazioni contro gli abusi della Chiesa che vi ho detto prima. Sempre dall'associazione Rete L'Abuso contro i preti pedofili, rapporto sulla pedofilia nell'arcidiocesi di Monaco, 497 vittime, coinvolti 173 preti e 9 diaconi. I preti pedofili. E no dei vescovi all'indagine in Italia, l'ira del Papa. Sempre le Rete L'Abuso del 20 gennaio dichiara che i vescovi stanno boicottando l'indagine sui preti pedofili. Dal Quotidiano Nazionale del 19 gennaio, terremoto nella diocesi di Monaco, focus sugli anni del cardinal Ratzinger. Copriva i sacerdoti pedofili, e sappiamo che è tutta una cricca. Rete L'Abuso, Germania, Zanardi, Rete L'Abuso e vittima dei preti. Avviare l'inchiesta sugli abusi anche in Italia, noi cerchiamo di fare pressione, ma i preti fanno quadrato per nascondere i loro mostruosi crimini. Pesanti accuse a Ratzinger, non agì contro i pedofili. E la Prealpina, a differenza degli altri giornali, ci mette anche una vignetta. Ratzinger non vede, il cardinal Marx non sente e un altro cardinale non parla. Il caso dell'arcidiocesi di Monaco con 497 vittime dei preti pedofili. Anche il manifesto del 21 gennaio, preti pedofili, la chiesa tedesca nella bufera, Ratzinger accusato da tutti. E anche il Corriere della Sera, il giornale più venduto in Italia, anche lui si scatena contro i preti, paginate intere, a pagina 10 del 21 gennaio, indagine sulla pedofilia a Monaco, Ratzinger non agì in 4 casi, rapporto riguardo il periodo alla guida della diocesi, Benedetto aveva presentato una memoria difensiva. Sempre Rete L'Abuso, siamo alla data del 22 gennaio. Ratzinger da Papa non intervenne anche in Italia. Il caso di Savona che finì sulla trasmissione Italia 1 Le Iene. E un documento inviato proprio dall'allora vescovo di Savona, oggi Cardinal Calcagno, e poi a incastrare anche in Italia l'allora Cardinal Ratzinger, i mostruosi crimini dei preti pedofili. Il Fatto Quotidiano del 21 gennaio, anche lui fa una bella paginata contro i preti pedofili. Abusi sessuali, Ratzinger, non punì i responsabili, Monaco di Baviera. Il dossier voluto dall'arcidiocesi dal 45 al 2019, 497 violenze anche su vittime tra 8 e 14 anni. Poi c'è un articolo di Fatto Quotidiano del 22 gennaio, a paginata intera, Monaco di Baviera, la chiesa della catastrofe. Che la catastrofe si compia, scrive Gad Lerner. Non sarà Papa Francesco, tantomeno col supporto di un apparato curiale vaticano ogni giorno più lacerato, a voler dare anche solo l'impressione di frapporre ostacoli alle inchieste sugli abusi dei preti pedofili. Nel marzo 2005, neanche un mese prima di diventare Papa, era stato il Cardinal Ratzinger a pronunciare nel corso di una Via Crucis parole inequivocabili sulla crisi della Chiesa. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa. E proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a lui. Signore, spesso la tua chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti, e speriamo che affondi. Quella denuncia prima e le clamorose dimissioni 8 anni dopo certificano che anche Ratzinger fu partecipe della necessità di un'azione demolitrice, la quale ben difficilmente avrebbe potuto incedere mantenendo al riparo le gerarchie tradizionali. I due papi, sia Bergoglio sia Ratzinger, sanno che la comunità cattolica uscirà completamente trasformata da questo cataclisma. Passiamo al quotidiano nazionale del 21 gennaio, lo scandalo che scuote la Chiesa. Le vittime avevano tra gli 8 e i 14 anni, preti pedofili, bufera su Ratzinger, non agì di fronte a 4 casi, insomma tutti addosso ai preti. Dall'Irlanda agli USA centinaia di episodi e maxi risarcimenti. Scusate, il Papa emerito respinge le accuse, la Santa Sede però non fa difese d'ufficio. Esamineremo i casi. Passiamo al quotidiano nazionale del 22 gennaio, le spine della Chiesa, preti pedofili, i vescovi fanno muro, ecco perché in Italia non si indaga. Molti temono una specie di maremoto che investirebbe anche la questione del celibato, ma cresce la fronda che chiede la verità. La Procura della Repubblica Giudiziaria di Monaco in campo. Sempre dal Quotidiano Nazionale, pagina punto 4, Pavia, adescava minorenni, prete rischia 2 anni. Si avvia la conclusione il processo che vede l'ex parroco di Cava Manara, 57 anni alla sbarra con l'accusa di adescatore di ragazzini. E la Repubblica del 21 gennaio, da arcivescovo insabbiò 4 casi, le accuse a Ratzinger sui preti pedofili. Indagine in Italia, la CEI spaccata, si decide a maggio. Quasi 500 le vittime di abusi a Monaco, il turbamento finto del Papa emerito. Da rsi.ch, cioè RSI vuol dire Radio della Svizzera Italiana, io ho abusato per 10 anni da un sacrestano. La testimonianza di Sergio Piacentin, vittima di abusi sessuali in ambito ecclesiale, 14 gennaio. Io, sono Sergio Piacentin, lavoro alla SUPSI, non ho nulla da vergognarmi, non ho nessuna colpa. Le parole di Piacentin a raccontare un'esperienza che è durata 10 anni che è avvenuta nel perimetro della Chiesa. Adesso un uomo adulto che ha attraversato il dolore, la paura e il silenzio di un abuso subito da quando aveva 7 anni per colpa del sacrestano. Da Rete l'Abuso del 26 gennaio, Enna, il prete accusato di violenza sessuale su minori, sarà presentata una denuncia all'ONU. altri misfatti, chiesa e criminalità. Tangenti in Puglia a questo l'erario, signor l'erario che era un funzionario pubblico, perquisita la casa del fratello cappellano al Miulli, che è un ospedale in provincia di Bari, chiesa e criminalità. Pochi giorni dopo l'arresto per corruzione dell'ex capo della protezione civile, la finanza ha perquisito la casa di suo fratello il prete. La Pia Mafia, un famoso mafioso di Bruzzano, Pepe Flacchi, ha voluto un grande, affollatissimo funerale religioso a Milano. Ma non erano scomunicati i mafiosi? Ovviamente è la solita burla della Chiesa, la solita truffa dei preti. Invece, dato che questi mafiosi lasciano congrue offerte, si chiude un occhio o tutte e due, e i mafiosi hanno diritto a enormi funerali religiosi, come il famoso Casa Monica dell'elicottero, no? Passiamo ad altro argomento, suicidio assistito, il manifesto del 20 gennaio. La regione Marche si ribella pure al governo. Ora c'è questo sfortunatissimo individuo tetraparetico che vive immobilizzato nel letto, una cosa pazzesca, e chiede insomma di lasciarlo morire, perché insomma non è una vita la sua, poverino. Sono tetraplegico, lasciatemi morire. Nelle Marche un altro caso in tribunale. Quindi siamo tutti pronti per il referendum di primavera. 18 gennaio 2022, la Repubblica. Dopo la battaglia di Mario, l'appello di Antonio. Adesso isolato con il Covid in rianimazione. Così non ha senso vivere. Parroco critica i vaccini durante la messa, contestato. Alcuni fedeli boicottano la messa e vanno fuori dalla chiesa. Perché, insomma, invece di parlare del Vangelo, della Bibbia, degli angeli e delle altre superstizioni clericali, si è messo a pontificare come fosse un esperto di vaccini. L'archivio storico lombardo, elenco dei giustiziati, parliamo brevemente, che ormai sono già 12 minuti che parlo, di crimini clericali lombardi. Per esempio, il 13 febbraio 1515 fu bruciata una giovannina a Milano per strega, e il 18 gennaio, sempre di quell'anno, fu bruciato un frate eretico per ordine dell'Inquisizione, i crimini della Chiesa. La Prealpina del Varesotto ci racconta un altro crimine di una donna cui furono negati i funerali religiosi e fu negato anche il cimitero, perché sapete che un tempo la chiesa controllava i cimiteri, e questa poveretta, oltre ad essere stata assassinata, gli fu anche negato l'accesso al Camposanto e fu quindi sepolta in un giardino della zona, dalla Prealpina del 19 gennaio. Bene, saluti anticlericali a tutti, da Pierino, saluti.